Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Andremo avanti fino alle ore 21.30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, abbiamo ascoltato la sigla iniziale di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Il programma ovviamente inizia alle ore 20, cioè adesso, fino alle ore 21.30. Ricordo che oggi è appunto è 12 dicembre 2024. E il programma va in onda grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. E ora andiamo così subito, partiamo con la musica, andiamo ad ascoltarci questa band statunitense, loro sono di dell'Oregon, esattamente da Portland, loro sono i Destripados e questo è il loro album d'esordio datato 2018 e che si chiama Gutless. Destripados. ci stiamo ascoltando, così direi a palla, questa band statunitense, Destripados, da Portland in Oregon, e questo è il loro album Gutless, datato 2018, album d'esordio. Buonasera a tutte voi che state ascoltando questa puntata di Zardins Magnetics di stasera, 12 dicembre. Come tutti i giovedì, siamo qui in diretta da Radio Onde Furlane. Vado solo brevemente a così indicarvi quali saranno gli argomenti di cui parleremo questa sera qui a Zardins Magnetics, e per quanto riguarda un importante corteo che si svolgerà a Tessera, in provincia di Venezia, un corteo che si dirigerà verso uno stabilimento di Leonardo, messo in piedi dall'assemblea antimilitarista Sabotiamo la guerra, di cui però ci andrà a parlare nel dettaglio un compagno dell'assemblea, appunto di quel territorio. E questo è il primo contributo che avremo. E nel secondo blocco, diciamo, di stasera, andremo a presentare invece una iniziativa che si svolgerà a Udine, in via De Rubeis, allo spazio autogestito, con appunto benefit per mandare avanti lo spazio autogestito, ma incentrato questa iniziativa è incentrata su una discussione che riguarda la strage di Piazza Fontana, la strategia della tensione e l'assassinio dell'anarchico Pino Pinelli, che, come sapete, di cui oggi tra l'altro ricorre precisamente l'anniversario, 12 dicembre 1969, a Milano, successe il fatto, ma lo vedremo questo meglio, con magari un po' più di ordine e un po' più nel merito fra una mezz'ora. E intanto ancora un po' di musica e poi ci colleghiamo con il compagno di Venezia. Bene, stiamo ascoltando questa band di Cuneo, anche se l'abbiamo ascoltata qualche settimana fa, anzi credo 2 settimane fa, ma l'abbiamo messa in programmazione sul finale di questa trasmissione, che ripeto è Zardins Magnetics, e perciò anche questo brano che abbiamo appena ascoltato l'avevamo brutalmente tagliato, quindi me l'ho ripromesso di farli riascoltare, insomma di rimetterli in programmazione, perché secondo me è una band che merita. Come ho detto, loro sono di Cuneo, si chiamano Fukuoka. Questo è il loro album d'esordio datato 2019, Spaccati di vita quotidiana. L'anno scorso hanno fatto uscire un secondo album. Comunque noi restiamo all'ascolto di questi Cuneensi Fukuoka. Quanto era bello Bene, questi che abbiamo ascoltato erano i cuneesi Fukuoka, dal loro album Spaccati di vita quotidiana, datato 2018. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band, altra band statunitense, proprio questo loro album uscito quest'estate in agosto 2024, che si chiama Confrère. Loro sono i Poison Ruin. Allora, fra pochi secondi diciamo avremo in linea il compagno di... Sì, è già in linea, ma lo salutiamo, ma un attimo, un paio di secondi che faccio una ripresentazione della questione. Allora, prima ho detto ci sarà questo corteo a Tessera vicino Venezia che porterà allo stabilimento, a un grosso stabilimento della Leonardo, è un corteo insomma di protesta, di contestazione, e ho detto che è stato messo in piedi dall'assemblea Sabotiamo la guerra. In realtà In realtà questo corteo è messo in piedi dal collettivo Sumud di Venezia. E il compagno è del collettivo Sumud, adesso ci spiegherà bene. E, noi, dico solo questo, noi qui in Friuli è importante per noi questo corteo qui contro la Leonardo, perché esattamente un anno fa avevamo fatto anche noi un corteo abbastanza importante, ecco, a Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia, di protesta appunto fino alla fabbrica dei droni che c'è qui a Ronchi, insomma, della Leonardo. Ci sei? Sì, ciao a, ciao. A tutti. Ciao. Allora sì, se vuoi dire meglio di me, insomma, parlarci un po' di come è nata questa iniziativa, e poi, se non sbaglio, ci dirai anche di un'altra iniziativa. Sì, okay, giusto. Ok. Va bene. Prima di tutto grazie per lo spazio che ci date per parlare di quello che stiamo provando a costruire. Molto molto velocemente, a Tessera, che è, diciamo, un paesino nel comune di Venezia, vicino all'aeroporto, cioè questo stabilimento della Leonardo SPA, che è uno stabilimento secondo noi abbastanza importante perché ha un ruolo, diciamo, di assemblaggio e riparazione di mezzi militari, e di mezzo in questo stabilimento, oltre che la Leonardo SPA, c'è la NATO e la Lockheed Martin americana, quindi, diciamo, racchiude in sé i grandi nomi del mondo guerra che ci si produce intorno a noi. E quindi è stato per noi, diciamo, come piccolo collettivo universitario, quale siamo noi di Sumud, un obiettivo abbastanza organico e coerente con il momento e la fase storica che stiamo attraversando, no? Quella per la quale la resistenza palestinese ha indicato ai compagni e le compagne nel resto del mondo di cercare di agire contro i responsabili del genocidio in corso, e in Italia si può dire che la Leonardo è un po' la punta di diamante nella collaborazione con Israele. Certo. Quindi noi, appunto, in quanto collettivo universitario, abbiamo fatto parte delle accampate studentesche che ci sono state qua a Venezia tra maggio, giugno e luglio, il cui fine era ovviamente quello di cercare di mettere in crisi i rapporti tra le università italiane e quelle israeliane, e secondo noi soprattutto sono state un momento importante perché hanno dimostrato la totale compatibilità tra il modello universitario nostro e, appunto, la guerra, dal momento che università e guerra non sono più scindibili ma fanno parte di, appunto, un unico paradigma. E quindi all'interno di questa mobilitazione, che appunto a Venezia è durata da metà maggio fino a fine giugno, oltre che a noi del collettivo, appunto, con un po' di persone che si sono aggregate intorno alla causa palestinese, di solidarietà alla resistenza palestinese, abbiamo deciso di fare questo piccolo lavoro di ricerca su questo stabilimento della Leonardo a Tessera, da cui poi è nato un breve opuscolo che abbiamo pubblicato qualche tempo fa. E quindi abbiamo iniziato a fare questa mobilitazione che, appunto, diciamo, culminerà con il 19 dicembre, quindi giovedì mattina, con questo corteo, speriamo, perché non siamo sicuri che sarà un corteo, intanto proprio per la logisticità del posto, essendo che comunque è un posto molto lontano e le strade sono molto grandi, noi ci immaginiamo anche che il corteo ci venga negato e che sia che diventi un presidio, cioè, nonostante noi pensiamo sia importante, perché, appunto, qua a Venezia è la prima volta che si va lì, che si cerca di avvicinarsi a questo stabilimento, e anche se, appunto, giovedì non si dovesse riuscire ad avvicinarsi proprio fisicamente, quantomeno avremmo posto la questione a livello cittadino del fatto che, appunto, accanto alla nostra città si produce la morte, insomma. Quindi l'invito è comunque quello di partecipare e di venire, perché, appunto, è un po' la prima volta, e in base anche a come uscirà questa giornata, ecco, avremo anche la capacità di riorganizzarci per il futuro, perché adesso, appunto, bisogna, insomma, concentrare le proprie energie sull'opposizione al mondo guerra. Ti volevo chiedere una cosa, Tessera è molto piccolo, no? C'è poco, sì, più, sì, di 1000 abitanti, mi pare. Sì, c'è un paesino di... È un paesino. Sì. Ci sono dei contatti con qualche abitante rispetto a questa questione qua? No, lì no, purtroppo. Per il no. momento no. No, perché no. anche noi quando abbiamo fatto appunto a Ronchi, Ronchi non è così piccolo, comunque anche Ronchi è un piccolo centro. Avevamo fatto dei volantinaggi al mercato settimanale, insomma, per preparare il corteo, così. E c'era stata una... cioè questi luoghi dove sorgono queste grandi industrie... distruttive, distruggono anche, secondo me, proprio antropologicamente un po' i territori, nel senso che in qualche maniera danno da mangiare, no? Perché ci sono, insomma, l'indotto, oltre a chi ci lavora direttamente c'è anche l'indotto. Anche a Ronchi c'era una certa, non dico ostilità, però diciamo una certa un certo fatalismo nelle persone, non negli abitanti, come dire, ma se ci... sì, ho capito, avete ragione che qua producono gli armamenti, però sì, ci sono 300 impiegati, no, per dire, no, nel senso che è una roba abbastanza sì, particolare questa qua, secondo me, di distruzione proprio anche dei territori dove sorgono questi giganti della guerra, che è una roba che va, sì, da affrontare, ecco, questo, in questo senso. Sì, noi per adesso appunto cioè proprio perché diciamo Venezia, vabbè, ha una dimensione molto molto complicata, noi siamo comunque, sì, cioè la maggior parte di noi sono studenti e studentesse fuori sede, e arrivare fino a Tessera comunque non è facile, esatto, perché macchine qua noi non ne abbiamo, sì, sì. Ne abbiamo fatto comunque un attacchinaggio di manifesti, e magari appunto nei prossimi giorni potremmo anche farlo. Il problema di Tessera è che cioè l'unica piazza che c'è è quella in cui noi abbiamo chiamato il presidio, sì, e per il resto sono solo strade, quindi è proprio un paesino, diciamo, attraversato da queste due strade, e sì, quindi sì. Anche però è una buona idea in effetti, quindi magari nei prossimi, sì, giorni ci organizziamo, insomma, perché appunto comunque sì, come dicevo prima, questo è un grande tentativo, quindi stiamo perdendo qualche passaggio, qualche pezzo purtroppo lo stiamo lasciando indietro, insomma, quindi cioè, è importante iniziare, consigli, sì, esatto, sì, sì. E comunque sì, diciamo che comunque questo presidio, che noi speriamo essere un corteo, è stato organizzato sì un po' dal nostro collettivo, altri gruppi insomma qua a Venezia, e diciamo che è supportato, diciamo, dall'assemblea di Sabotiamo la Guerra, e con la quale appunto sabato 21 dicembre al Tutti in Piedi a Mestre, sì, alle 14:30, 15 circa, ci sarà l'assemblea pubblica di Sabotiamo la Guerra, quindi per noi saranno comunque due o tre giornate interessanti per confrontarsi sia a livello, diciamo, locale del nord-est, sia a livello un po' più ampio, su come, diciamo, andare avanti con questa mobilitazione per sia per la Palestina sia, insomma, contro la guerra, anche dati i recenti sviluppi e avvenimenti. Certo. Ci tengo anche un attimo a dire, insomma, che questo obiettivo, diciamo, che ci siamo un po' dati della Leonardo SPA a Tessera, vorrebbe, nelle più rosee aspettative, cercare di essere appunto una data che si aggiunge alle varie date che hanno caratterizzato questo anno di mobilitazione, date come quella del 18 maggio a Lecco contro la Fiocchi Munizioni, sì, e del 25 giugno a Genova con il blocco del porto della città, e anche poi di quel corteo che è riuscito a passare vicino alla sede della Leonardo col Prendola, che sono secondo noi due date che hanno dimostrato quanto appunto la produzione di guerra e la sua logistica possono essere bloccate. Noi, ecco, nel senso, ci piacerebbe molto bloccare, sì, quello stabilimento per un giorno, la vediamo molto difficile, un po' per i giorni, cioè per la giornata, per Venezia, per tanti motivi, però diciamo che questa data vorrebbe aggiungersi un po' anche come la vostra a Ronchi, aggiungersi a, no, questo insieme di date che stanno, secondo me, dimostrando un'indisponibilità a farsi governare dalla guerra, e che appunto è un'indisponibilità che deve essere tenuta viva per mantenere degli spazi, insomma, di vita contro appunto la guerra che avanza, insomma. Quindi era solo per dire che cioè ci piacerebbe, insomma, installare, cioè, questa chiamata Tessera all'interno di quello che per noi è un movimento che si sta creando, interessante, però, sì, insomma, molto agli albori, che appunto è un po' un nuovo movimento contro la guerra, che insomma in questo momento è da coltivare e alimentare, secondo noi. Sicuro. E non so, vuoi riepilogare allora i due appuntamenti, così poi magari, non so, se abbiamo concluso. Sì, sì, sì, ovviamente se voi avete altre domande o spunti o suggestioni, però sì, l'invito è per giovedì 19 dicembre alle ore 11:30 in piazzetta della Chiesa Tessera. Piazzetta appunto, della Chiesa, quindi ok. Sì, sì. Sì, esatto. Fermate dell'autobus, diciamo, da Venezia sono il 5 e il 15, e la fermata è proprio Tessera. Uh-huh. Che appunto sarà un presidio, diciamo, nella speranza di far sì che sia un corteo, insomma. E poi sabato 21 al Tutti in Piedi di Mestre in Piazza Canova numero 1, l'assemblea pubblica di Sabotiamo la Guerra, e a seguire c'è una benefit, quindi comunque anche un momento di, insomma, convivialità e di scambio. Dire. Bene, certo. Bene, intanto noi invitiamo anche a leggere l'opuscolo di cui parlavi all'inizio, sì, è vero. I nostri ascoltatori, io l'ho letto, era uscito un nello po' specifico, di sì, è interessante, insomma, è ben fatto, secondo me. Tira fuori tante questioni, insomma, e, in modo che si, perché secondo me è importante anche appunto di questi della Leonardo approfondire in maniera anche precisa, no? Quello che fanno, anche quello che dicevi prima del il discorso della manutenzione, diciamo, dei velivoli da guerra, e oltre che la costruzione di questi nuovi, no? Nuovi modelli, però anche questa idea di far durare, no? Gli strumenti di guerra il più a lungo possibile, di incrementarli, insomma. Certo. E sì, è una roba. E poi, ecco, visto che siete universitari, cioè c'è il discorso di Medor, se vuoi dire un po', visto che voi a Ca' Foscari avete la rettrice, no? Sì, sì, sì. Che sì, è di Medor. Esatto. Sì, sì, noi qua a Ca' Foscari, appunto, verso. Vabbè, si può interessare. Noi sempre come collettivo, a circa un anno fa, mi pare dicembre dell'anno scorso, avevamo fatto una breve, anche lì avevamo scritto un breve opuscolo, sì, sempre sugli accordi tra l'Università Ca' Foscari e il mondo militare, uh-huh, che sono soprattutto legati alla Marina Militare e uh-huh, alla Polizia Locale per il progetto della Smart Control Room, infatti, però sì, ovviamente la questione centrale appunto è la partecipazione di Tiziana Lippiello, ovvero la rettrice di Ca' Foscari, dentro Medor. È una partecipazione, cioè una questione che è stata messa molto in luce grazie appunto alle occupazioni, perché qua a Venezia, mm-hmm, per un periodo, ovvero tra maggio, giugno e luglio, ci sono state tre occupazioni universitarie in contemporanea, sì, di cui la più longeva è durata 50 giorni ed è stata un'occupazione che appunto ha avuto davvero la capacità e il merito di rendere esplicito la partecipazione di Ca' Foscari e della Lippiello al mondo della guerra, cosa che non ha portato alle dimissioni della rettrice, ma che ha sicuramente reso evidente la sua complicità, e quindi quello secondo me è stato molto, molto interessante, quindi mm-hmm, anche questo obiettivo, no, della Leonardo è abbastanza in continuità con quel percorso, cioè comunque appunto la solidarietà al popolo palestinese che si è formata all'interno delle occupazioni universitarie, per noi è quello che abbiamo provato a fare, è darle uno sbocco più ampio, e quindi partire sì dalla contestazione universitaria, però avere la capacità di metterla in quello che è un quadro più ampio, che è appunto quello della contestazione al mondo della guerra. E quindi sì, cioè appunto di legami ce ne sono, e qua ripeto appunto un po' l'importanza di cioè che i compagni e le compagne devono un attimo accollarsi, che è quello appunto di impegnarsi, insomma, cioè su queste tematiche qua. Beh sì, certo, sicuro. Bene. Allora inceppiamo la guerra, proviamo. Dai, proviamo. Inceppiamo la guerra, ecco, e sveliamo che la guerra comincia qui. Sì. Esatto, esatto. È proprio al nostro fianco, purtroppo, e quindi dobbiamo combatterla qui. Ok, allora ci vedremo. Bene. Prossima settimana. Dai, grazie sì, mille davvero. A presto, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Eccoci qui di nuovo in voce per questa puntata di Zardins Magnetics. Vi siete sintonizzati da poco, siamo sempre noi, e dopo il collegamento col compagno veneziano di Venezia per il corteo Inceppiamo la guerra contro la Leonardo, che si svolgerà esattamente tra 7 giorni, cioè il 19 dicembre alle 11:30, ripetiamolo, e passiamo all'altro argomento di stasera, che è appunto la ricorrenza della strage di Piazza Fontana. Come sempre, diciamo, insomma, io almeno cerco di ripeterlo quando facciamo queste incursioni così, fra virgolette, storiche, non sono pensate tanto per scrupolo, insomma, filologico, di ricostruzione storiografica, per filo e per segno, per in modo da indottrinare chi ascolta su trasmettere, non so, contenuti informativi o quant'altro, che qua non si fa quel genere di attività lì, anche volendo farla, non, appunto, non si vuole farla. Quello che ci interessa è utilizzare, diciamo, un pretesto che è una ricorrenza come quella di oggi, 12 dicembre, anche oggi, utilizzare questo, appunto, questa scusa per fare il punto della situazione nostra di oggi, vedere se scaturisce qualcosa da queste cose che sono successe, diciamo, un bel po' di anni fa, insomma, un'altra epoca storica, possiamo dire, per quanto, insomma, non si parla di secoli, ma insomma è mezzo secolo per noi, insomma, che viviamo, per noi esseri umani, dico specie umana che vive quel determinato lasso di tempo, sono comunque la maggior parte, purtroppo non tutti, di quei personaggi, insomma, che sono resi protagonisti di quella vicenda lì, purtroppo non tutti, penso soprattutto a certi personaggi televisivi, non sono ancora scomparsi per motivi fisiologici, insomma, intendevo che la maggior parte sono scomparsi, insomma, se i filmati che noi abbiamo preso e che verranno così fatti vedere sabato sera qui a Udine in via De Rubeis inquadrano, insomma, ci sono la maggior parte delle persone, chiaramente non ci sono più di quegli attori, di quegli interpreti o quelle protagonisti, diciamo, di quelle situazione là. Stavo dicendo, appunto, che scaturisce qualcosa, forse potrebbe scaturire qualcosa, sì, per noi sì. Ad esempio, adesso qui ho lo schermo dell'ANSA, di oggi, appunto, dove si parla delle dichiarazioni fatte da soliti personaggi istituzionali, e ci sono i tag terrorismo, attacchi terroristici, Sergio Mattarella. In questi giorni, da lunedì in qua, diciamo, di questa settimana che va dal cos'era l'8-9 dicembre al 12 dicembre, oggi insomma è stato fatto un martellamento su questa questione del liberarsi dei despoti, del non essere più terroristi, cioè, sono come parole che vengono vendute così, a inflazionate, buttate là. Però è vero che in italiano la parola terrorismo è venuta fuori e è emersa proprio con questo, scatenata con questo, con questa situazione qui di 55 anni fa ormai. E mettiamo ancora qualche secondo di musica e poi riandiamo avanti. Sì, dicevamo appunto, allora ricostruiamo così un contesto, un attimo, un contesto appunto che poi magari cercheremo di decostruire, se non è stasera lo faremo sabato, come appunto va fatto secondo noi, ma comunque il contesto che viene, non diciamo spacciato, ma comunque che viene tramandato di quella situazione è questa, insomma, 68 contestazione studentesca a livello università italiane, ecco, 69 c'è una grande frequenti e di massa con agitazioni, succede insomma che in seguito al boom economico, insomma al grande sviluppo economico degli anni 60, si comincia a fare richieste anche di sviluppo sociale, ecco, possiamo riassumere così la questione. Quindi le persone scendono in strada e ad esempio chiedono consistenti miglioramenti non solo di busta paga, ma anche di appunto cose che possono modificare la loro vita quotidiana in meglio, ecco, non solo, ripeto, migliorare lo stipendio, ma avere dei servizi adeguati, avere del tempo libero insomma disponibile, insomma tutta una serie di legittime rivendicazioni fatte con varie modalità, insomma molto partecipate e molto anche spregiudicate, e coinvolgono insomma tutto lo stivale. Fuori, insomma, al di là delle Alpi, magari la questione è diversa. È diversa perché comunque l'Italia che degli anni 60 è un'Italia molto arretrata socialmente, sebbene che appunto gli anni 60 rappresentano una svolta completa, insomma, economica, l'uscita, diciamo, dal mondo contadino, come paese contadino appunto di quella che usciva dalla guerra, ma era ancora legata alle attività primarie. C'è l'industrializzazione completa, l'industrializzazione anche insomma capillare della società, e ripeto, si arriva a questa svolta appunto che non basta più l'abbondanza economica, ci vuole anche qualcos'altro. La risposta dello Stato qual è? Semplicemente negare, mandare la polizia armata, la polizia che spara, non solo lacrimogeni, spara letteralmente, ad esempio a Battipaglia nell'aprile, c'era un presidente della Repubblica come Saragat che era una persona autoritaria, cioè una figura profondamente autoritaria che copriva completamente queste condotte diciamo criminali della polizia, vengono tirate fuori varie teorie da questi uomini di potere sugli opposti estremismi. Insomma, adesso non ci dilunghiamo, ci sono 10.000 condanne solo nel 1969, vuol dire appunto questioni in tribunale e condanne di primo grado, gente che viene messa dentro, studenti, ma non solo, anche lavoratori. In questo quadro si comincia dal 25 aprile, diciamo, è visibile dal 25 aprile 69 la questione di attacchi, chiamiamoli attacchi perché appunto non sono ben, cioè non vengono ben percepiti che genere di attacchi siano, mescolati a questi momenti, diciamo, di azione diretta, ci sono delle veri e propri attacchi paramilitari. Invece tra l'8 e il 9 agosto 69 ci sono 8 treni in località distanti, insomma, della rete ferroviaria italiana, dove vengono collocate valigette con dentro esplosivo non rivendicate. Questi qui sono adesso, dicendo, diciamo, parlandone adesso, è chiaro insomma che sono molto diverse da quel genere di attacchi, come l'attacco alla fiera di Milano appunto del 25 aprile, o anche la valigetta, o anche l'ordigno alla stazione centrale di Milano. E arriva dopo questo, appunto, dopo questi percorso, chiamiamolo, di che adesso evidenziamo noi, però in quel momento là non era che avesse granché importanza questo fatto delle esplosioni. Arriva l'autunno, appunto, aumentano gli scioperi, aumentano anche gli scontri. Padroni e Stato sono ancora incapaci incapaci di affrontare la spinta operaia. Se lo fanno è con l'intimidazione. Si arriva addirittura in 3 mesi, che sono appunto dicembre, novembre, ottobre, a 13.000 denunce. Si concentra la questione su Milano, perché a Milano, ad esempio, in una scontro tra dimostranti e polizia rimane ucciso un cellerino, a Narum, si cerca di far ricadere la colpa sui manifestanti in maniera inconsistente. Entra di nuovo, mette la lingua anche qua, anche su questa questione, direttamente Saragat. Per arrivare appunto al pomeriggio del 12 dicembre, ne abbiamo parlato anche adesso, parentesi, abbiamo parlato anche altre puntate di Zardins Magnetics, non importa, comunque arriviamo a questo incredibile 12 dicembre, dove appunto sia a Milano che a Roma vengono collocate 5 bombe, in particolare quella collocata a Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano. Quella lì provoca complessivamente 17 vittime, immediatamente 14, cioè il giorno stesso vengono contate 14 vittime. Poi appunto nel corso delle settimane seguenti è un calvario, ci sono tutte queste, appunto, anche feriti, un numero elevato di feriti. Le reazioni, diciamo, di cui non ho concluso ancora la questione. Cosa avviene dopo questa bomba? Immediatamente cala, diciamo, una cappa di piombo, insomma, di angoscia, specificamente su Milano, ma a livello nazionale, perché giustamente le persone si sentono minacciate, colpite in maniera indiscriminata da, ripeto, quello che è un attacco paramilitare, come se appunto improvvisamente l'esercito, perché di fatto, insomma, quelli che hanno organizzato e portato a termine questo attentato erano comunque camerati, insomma, militarizzati, era un gruppo paramilitare, chiamiamolo, sicuramente era strutturato come una milizia, sicuramente. Dicevo, questa cappa di piombo che cala, paralisi nel movimento, momento di paralisi, non si sa neanche cosa pensare. A livello istituzionale, immediatamente i partiti si schierano a difesa delle istituzioni, cioè automaticamente si comincia a far girare, insomma, questo messaggio del che deve mantenersi l'ordine, ecco. Esattamente il 15 dicembre, in seguito a un gruppo di, insomma, il fatto che c'è, insomma, vengono fermati decine di compagni di tutta la città, di varie anche tendenze, e Pino Pinelli, che era un anarchico, appunto, viene durante l'interrogatorio, viene gettato, insomma, con tecniche così affini alla tortura. Mettiamo, insomma, che in quegli anni lì c'era anche l'Algeria, da poco, insomma, c'era questa questione anche della tortura, e il compagno Pinelli viene lanciato insomma, viene fatto cadere dall'ufficio del commissario Calabresi. Sul momento, insomma, nessuno se ne accorge di questa cosa. Piano piano, poi, a livello di movimento, la cosa viene messa a fuoco. Viene il giorno dopo, o insomma di lì a poco, viene accusato un altro compagno anarchico, Pietro Valpreda, di aver collocato l'ordigno sulla base di una testimonianza di una persona che pensava di riconoscerlo. Di lì in poi si impianta tutto un macchinario giudiziario, e viene, insomma, immediatamente diciamo, quel contesto lì che c'era nel 69 in Italia si muove, diciamo, contro il movimento di contestazione, contro il movimento rivoluzionario, ecco. Questo è il contesto, ecco, di base. Sì, e quindi insomma per arrivare appunto un po' all'iniziativa di sabato, l'idea è quella di ricordare, cioè riflettere, insomma ragionare insieme collettivamente sui fatti appunto del 1969, non in una maniera vittimistica, diciamo, come è stato fatto e viene tuttora fatto, insomma, anche mistificando, diciamo, la realtà, ma l'intento è quello di provare a ragionare, così a mettere in discussione alcuni luoghi comuni, come è anche quello del vittimismo, appunto, o quello che vede nell'anarchismo degli anni 60 l'anello debole del movimento rivoluzionario. E quindi un anarchismo, cioè un movimento anarchico facilmente infiltrabile e per questo colpito dalla repressione e dalle montature. E per così provare un po' a ragionare appunto insieme su queste cose, oltre, si diceva prima, dei filmati che comunque sono interessanti perché fanno capire la mentalità dell'epoca, ma ci sono anche delle cose, insomma, sì, utili, diciamo, da rivedere. E abbiamo utilizzato anche così i materiali e le riflessioni di Alfredo Cospito, del compagno Alfredo Cospito, che ha scritto, insomma, un articolo importante su sì, un bel po' di tempo fa, mi pare nel 2015 se non mi sbaglio, e che si chiamava Alle origini del vittimismo, appunto, si intitolava, e faceva un po' un'analisi storica, ma in questa ottica sempre di prepararsi per il presente, insomma. E che questa analisi, l'analisi di Alfredo, parte addirittura dal 62, quindi è ancora più ampia. E poi anche tra le varie altre cose siamo andati un po' a rivedere anche gli scritti di Alfredo Bonanno appunto su queste cose qua. Allora, io volevo dire, il tempo, insomma, non abbiamo tanto tempo, ma comunque vi invitiamo a venire sabato dalle 18:30 in poi, così è meglio. E in via dell'Ubeis 43, appunto, a Udine. E allora, dagli scritti da questo scritto di Alfredo Cospito, sì, era proprio 2015 sul giornale anarchico a periodico Croce Nera Anarchica. E lui fa tutto un elenco, insomma, di azioni anarchiche, appunto, di azioni dirette anarchiche che sono state portate avanti in quegli anni, negli anni 60. Una cosa interessante tra le varie, c'è questo rapimento, questo sequestro del 1962, il 29 settembre del 1962, alcuni giovani anarchici, in maniera piuttosto improvvisata, sequestrarono a Milano il viceconsolo spagnolo Isu Elias per richiedere la commutazione della condanna a morte in Spagna, che la condanna a morte veniva eseguita alla garrotta, di un loro compagno della Federazione Iberica de Juventudes Libertarias. E l'obiettivo fu raggiunto, al giovane anarchico venne risparmiata la vita, per dire, questo, cioè 62, quindi Piazza Statuto, mi viene, no, da dire, cioè in quel contesto lì, insomma. E poi nel 66, che il primo maggio del 1966, a Roma invece viene sequestrato Monsignor Marcos Ussia. Siamo sempre in questa ottica internazionalista, anche di solidarietà con gli anarchici spagnoli, no? Perché, e con gli antifranchisti spagnoli, perché appunto in quegli anni, ricordiamo, in Spagna c'era Franco, che è seccato nel 75, cioè è finita la dittatura, diciamo, comunque non c'è stato più dal 75, però si era in piena dittatura franchista. E appunto Alfredo Cospito, nel suo scritto, che poi appunto così magari analizzeremo meglio anche sabato, cioè lui dice, diciamo, ribalta un po' una certa ottica, cioè dice: la strage di Piazza Fontana non fu per gli anarchici come molti storici sostengono, la perdita dell'innocenza, ma la nascita di una nuova figura, un ruolo nuovo accettato per paura della repressione, un ruolo impregnato di un innocentismo pietoso e strumentale, cioè l'anarchico vittima del sistema, l'anarchico ingenuo fanciullo che gioca la rivoluzione facilmente a rischio di essere avvicinato da infiltrati strumentalizzati da parte del potere. E invece lui dice no, invece gli anarchici sono stati attaccati, repressi, messi dentro, accusati anche di cose che non avevano compiuto, proprio perché invece in quegli anni lì attaccavano e quindi sono stati repressi proprio perché attaccavano, non perché erano degli innocentoni. E non entro in merito, poi altre cose lo faremo. Dicevo anche di Alfredo Bonanno, anche lui in questo libretto Edizione Anarchismo Opuscoli Provvisori, Io so chi ha ucciso il commissario Luigi Calabresi, è una edizione, tra l'altro una ristampa, lui dice: il 1969 è l'anno in cui lo Stato sa che sta giocando una partita radicale importante, e questa partita non viene soltanto giocata sulla capacità di fronteggiare il nemico di sempre, il movimento operaio nel suo aspetto generico di domanda di miglioramenti, modificazioni, ma anche qualcosa di oscuro, di non chiaro su questo piano, vista la capacità dimostrata in diverse occasioni dalle masse operaie e produttrici di auto-organizzarsi anche in piccoli fatti, in piccoli aspetti apparentemente marginali. E ora io mi chiedo, compagne che mi ascoltate, questa capacità da un punto di vista teorico e da un punto di vista pratico, chi la possiede da sempre? Essa, cioè questa capacità dell'auto-organizzazione, essa è da sempre patrimonio del movimento anarchico. Sono gli anarchici che hanno da sempre sostenuto la necessità di auto-organizzarsi nella lotta, di impadronirsi delle strutture di lotta e di dare vita a movimenti combattivi, non restando legati a sindacati che non possono se non portare acqua al mulino del governo. Ecco perché gli anarchici in quel momento rappresentavano per lo Stato una spina nel fianco, e non solo in quel momento. Ecco perché ci portano in carcere anche oggi, perché rappresentiamo il riferimento possibile di uno spazio auto-organizzativo delle lotte. E non perché in questo momento, come nel 1969, questa forma auto-organizzativa delle lotte è in corso di realizzazione, ma perché è in nuce, nella piccola possibile idea, che domani può diventare seme, dopodomani può diventare albero, poi può mettere rami e produrre i frutti rivoluzionari di sconvolgimento sociale. Ecco che cosa teme lo Stato. E poi continua, insomma, parlando della bomba di Piazza Fontana e di tutto quello che ne è seguito. Mi sembra, ecco, io ho finito. Sì, no, volevo solo aggiungere un altro, secondo me, riferimento. Il riferimento è sempre, sì, teniamo presente queste questa prospettiva di Alfredo Cospito, che scriveva in un momento in cui poteva farlo e non era il 41 bis ancora, ricordiamo anche questo, che certo, sì, si trova il 41 bis perché faceva questo genere di ragionamenti. Un'altra cosa importante, però, un'altra prospettiva è forse anche più, come posso dire, un ragionamento un po' diverso, secondo me più comunicativo, mettiamola così, oppure meno, non meno determinato, ecco, ugualmente determinato ma più comunicativo. Io tengo presente l'articolo di cui abbiamo parlato già qui a Vernice Magnetics, Un tormento lungo 100 anni sulla strage del Diana, che era uscito sul Rovescio, ricorderete, nel 2021. La strage del Diana, insomma, è uno spartiacque, anche questo, della storia dell'anarchismo italiano, che si sempre, appunto, non a caso lo tiro fuori perché anche immediatamente dopo la strage di Piazza Fontana qualcuno ha tirato fuori il Diana, perché comunque c'erano ancora persone, compagni militanti che che avevano vissuto anche quella vicenda là nel 1921, quindi 23 marzo 1921 viene collocato anche lì un ordigno durante, cioè nel mezzo del biennio rosso, ecco, prima dell'avvento del fascismo, e viene però completamente sbagliato obiettivo, e vengono appunto, ci sono addirittura 21 morti, ecco, in quell'attacco lì. Il discorso, no, semplicemente adesso vado a chiudere, la prospettiva che viene elaborata in questo articolo è partire da quello che concretamente, diciamo il senso che noi assegniamo al concetto di violenza oggi, nel 2021, in quel momento, insomma nel 2024, insomma negli anni 20 del 2000, ecco, che senso attribuiamo noi come appunto con la pretesa di voler portare una prospettiva diversa da quella presente, e uno è con anche la pretesa di rivolgerci soprattutto a qualcuno che sono sempre gli sfruttati. Ecco, gli sfruttati, che tipo di ricezione avranno di questa, del senso che noi diamo appunto alla violenza rivoluzionaria, diciamo così. È molto molto molto, diciamo, impegnativo, ecco, affrontare questo genere di questioni, non perché stiamo lì a dire ma sì, qua, là, giù, su, no, è perché bisogna mettere ben a fuoco che noi, ad esempio, le azioni di cui parla anche Alfredo Cospito non sono, cioè sono correttamente, lui diceva appunto, sono attacchi, come si chiama, propaganda col fatto, no? Ecco, nel frattempo sono successe delle cose nella percezione comune, diciamo, di quella che è la propaganda del fatto, ecco, e non è che possiamo chiudere gli occhi su questa cosa che sono successe, appunto sulla stessa nozione di terrorismo, come viene inflazionato questo termine, insomma usato ogni volta con direzioni diverse, con maniera opportunistica di come va bene in quel momento lì, è un termine enormemente ambiguo. Il discorso appunto che, ecco, la bussola nostra è questo, se dice insomma la prospettiva del compagno che ha scritto questo contributo sulla strage del Diana, è il discorso dell'avere come referente appunto gli sfruttati, che comunque vivono delle condizioni ben determinate, sono un numero maggioritario nella società, e vivono questo stato di ipnosi, però in questo stato di ipnosi non è che noi, ecco, è questo qua un po' il nucleo di cui andremo a parlare il sabato, ecco, che adesso però chiudiamo. Sì, ricordando allora l'appuntamento allora, che sarà, sì, sabato 14 dicembre 2024 a Udine, presso lo spazio autogestito di Via De Rubeis 43. L'appuntamento è alle 18, sì, con la proiezione dei documentari dell'epoca e discussione, chiacchierata, e seguirà cena di autofinanziamento dello spazio, molto importante anche questo, insomma. Ecco, io dico anche un'altra cosa di sabato 14, questa volta a Trieste alle 11 di mattina, sempre visto che abbiamo parlato del corteo contro la Leonardo, insomma delle iniziative antimilitariste, ci sarà un presidio in via Von Bruck, che è davanti alla sede dell'autorità portuale, proprio organizzato questo presidio dal coordinamento No Green Pass e oltre, proprio per dire no al transito di armi e armamenti nei nostri porti. È anche questa, insomma, un'occasione per non lasciar passare appunto la cultura della guerra, le fabbriche di morte nei nostri territori. Allora vi aspettiamo sabato a Udine, intanto alle ore 18 in via dei Rubeis, e alla prossima. Sì, un saluto. Ciao. Bene, teniamo in sottofondo questa band, vabbè, alquanto insolito il genere. Comunque è una band di Barcellona, loro sono i Belgrado, è una band che è nata nel 2010, e questo è il loro album datato 2023, che si chiama Intra Apogeum. E comunque, altra cosa, che siamo ormai giunti al termine di questa trasmissione, che è Zardis Magnetics, e anche volevo ricordare che in precedenza abbiamo ascoltato una band, diciamo hardcore metal, che si chiamano La Città Dolente, dal loro album Sales People, che è datato 2017. Comunque è una band di Milano, ovvero La Città Dolente. E ricordo anche, appunto, che questo programma va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20 alle ore 21:30. Ricordiamo, come sempre, in conclusione, i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica, potete farlo intestando, cioè scrivendo alla mail liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org. Inoltre potete scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo che anche questo, diciamo, l'episodio di oggi giovedì 12 dicembre 2024 potete riascoltarlo. Ma anche quelle delle tutte le trasmissioni degli scorsi giovedì, andando in rete alla ricerca di zardismagneticsradio.noblogs.org. Bene, siamo al termine, salutiamo tutti, appuntamento per il prossimo giovedì, e anche ricordiamo che domani ci potete riascoltare sulla web radio Radiazione dalle ore 17, domani venerdì 13 dicembre. Bene, ciao a tutti, vi lascio con questo ultimo brano di questa band post-punk di Barcellona, loro sono i Belgrado. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.